Allora sì, ciao Gaia, ciao Sandra. Ciao a tutti. Parlo proprio velocissimamente del libro da cui faranno il reading. Appunto, Sandra Cane, Gaia Keaguana, che è attrice, performer, scrittrice, ricercatrice. Questo libro appunto è un libro di Adrienne Mare Brown, un'autrice di Detroit, queer, che in questo libro però non è da sola assolutamente, anzi il titolo è abbastanza indicativo insomma del contenuto del libro. Pleasure activism letteralmente è uno statement appunto di dell'autrice, che però appunto cerca, invita una serie di persone che in qualche modo scelgono il piacere come strumento politico principale della loro pratica, e ci conversa, ci dialoga, gli passa la voce e, se, e insomma costruisce questo, questo affollato, diciamo, mosaico di voci. Lascio subito lo spazio a Sandra e a Gaia, e magari appunto vi diranno anche che cosa, quali delle voci hanno tirato fuori da leggeranno per noi in maniera super sexy. Mi hanno anticipato. Grazie, e partiamo con la prima traccia. And the erotic is a measure between the beginnings of our sense of self and the chaos and power of our deepest feelings. It is an internal sense of satisfaction to which, once we have experienced it, we know we can aspire. Once having experienced the fullness of this depth of feeling and recognized its power, in honor and self-respect, we can require no less of ourselves. Ciao a tutte, benvenute in Pleasure Activism. Il mio nome è Adrienne Marie Brown, sono una mediatrice, stratega emergente, doula, guaritrice, una zia straordinaria e un'attivista del piacere. Sarò la tua ospite in questo spazio di sensualità, la tua compagna di apprendimento in questo viaggio attraverso il piacere, magari anche la tua guida verso il tuo risveglio erotico. Ho racchiuso qui, sotto forma di saggi, interviste, profili, poesie e strumenti pratici, tutto quello che ad oggi conosco sul piacere come pratica politica. Sono figlia di un padre nero e una mamma bianca e di una bellissima storia d'amore. Il percorso di crescita mi ha beneficiato di tutte le possibilità offerte da questo contesto d'amore. La mia famiglia non è stata risparmiata dal suprematismo bianco, né dal razzismo della sua interiorizzazione, né dal colorismo, ma abbiamo vissuto tali dinamiche e il malessere che ne deriva a partire da uno spazio d'amore capace di vedere oltre queste stesse dinamiche e di cogliere il lato umano al di là del processo di socializzazione, il più delle volte almeno. Sulla base dello specifico costrutto razziale del paese in cui vivo, in questo momento storico, mi identifico come una persona nera, figlia di un contesto familiare in cui la razzializzazione è sia agita che subita. Assumo il concetto di razza come un costrutto sociale e non biologico. E in questa vita provo un gran piacere ad essere nera. Amo l'idea della black girl magic, la gioia nera, l'amore nero e il lavoro per la liberazione nera. Sento una gioia impertinente per il modo in cui sovvertiamo il suprematismo bianco, per come dominiamo la cultura e la coolness, invitando spesso le persone a condividere il piacere che siamo riusciti a costruire dal nulla e attraverso i sogni. Amo la seduzione, amo il sesso, amo le spalle nude, le curve dei fianchi, amo il momento in cui realizzo che sotto gli strati visibili dei vestiti non c'è nessun reggiseno o boxer a contenere il corpo che sto osservando. Amo le inspiegabili vampate di calore romantico. Amo tutti i modi in cui siamo sensuali. Mi piace profumare, assaggiare tutto ciò che sembra delizioso, sentire quanto è viva la pelle, ascoltare i suoni del respiro e del piacere, vedere la bellezza della carne e delle ossa. E poi ridere. Ridere a crepapelle, giocare, sentirmi viva. Il mio corpo riesce a provare un immenso piacere. E più cresco, più espando intenzionalmente la mia conoscenza sensuale e la decolonizzo. Così, da poter provare molto più piacere di quanto il capitalismo ne ritenga possibile. Cosa succederebbe se solo assumessimo per un attimo il piacere come principio politico, proprio in quanto persone che sopravvivono a condizioni oppressive di lunga durata? Sono queer, nel senso più ampio del termine. Sono resistente alle norme tanto nella vita sessuale quanto in tutti gli altri aspetti della mia vita. In effetti, mi piace sentire una certa dose di mascolinità nella mia partner. Ma mi intriga solo se posso stare sopra, sotto, di lato e se loro sono in grado di vedere sia la donna che l'uomo che è in me. Ho provato la monogamia, le relazioni aperte, il poliamore e a stare da sola. Le relazioni non monogame sono quelle che mi seducono di più, anche se può capitare che mi concentri su un'unica relazione. Una persona con cui sono stata recentemente ha condiviso con me l'assetto dell'anarchia relazionale e la considero l'articolazione più precisa che io abbia potuto incontrare fin qui del mio approccio all'amore e al sesso, poiché si basa sul legame di fiducia, sul cambiamento e la comunicazione sincera. In cosa credo? Credo che ogni organizzazione sia fantascienza. Plasmiamo il futuro a cui alleniamo, ma che non abbiamo ancora vissuto. Penso che ci troviamo in una battaglia dell'immaginazione e quasi tutto ciò che riguarda il modo in cui ci rivolgiamo ai nostri corpi è contaminato da un immaginario timoroso. Un immaginario che ha paura della nerezza e di altre esistenze razzializzate, della grassezza, delle soggettività queer, delle disabilità, della differenza. La nostra immaginazione radicale è uno strumento per la decolonizzazione, per rivendicare il nostro diritto a definire la realtà che viviamo. Porto avanti questa pratica in tutti gli ambiti possibili della mia vita. Credo che la giustizia trasformativa sia un elemento fondamentale per raggiungere la guarigione sociale su vasta scala di cui abbiamo bisogno. La giustizia trasformativa è un modo in cui possiamo iniziare a pensare che il male che ci è stato fatto non continuerà a verificarsi, che possiamo sradicarlo e seminare nuovi modi di stare insieme. Penso che trarre forza dal desiderio e dal piacere faccia prosperare la giustizia. Se non ci accontenteremo più di una giustizia per poche persone, potremo smettere di competere tra noi. Sovrapponendo spazi di desiderio e di vitalità, possiamo invece generare forza, attingendo a una prosperità in cui vi sia abbastanza attenzione, liberazione e giustizia per ognuno di noi. Continueremo ad imparare insieme. Queste pagine sono uno spazio per porre domande senza imbarazzo, per amare ciò che amiamo ed esplorare le ragioni di tutto questo amore, per aumentare il piacere che sentiamo quando facciamo cose che fanno bene alle specie viventi e al pianeta, per coltivare il nostro interesse nell'amore e nel piacere radicale e per alimentare il sì orgasmico in ognuno di noi. Cos'è l'attivismo del piacere? Il piacere è un sentimento di piena soddisfazione e godimento. L'attivismo consiste in un impegno a promuovere e orientare il cambiamento al fine di impedire il ristagno sociale, politico, economico o ambientale, con il desiderio di generare un miglioramento della società. L'attivismo del piacere è il lavoro che facciamo per rivendicare la pienezza, la felicità e la soddisfazione di sé, sottraendole alle influenze, le illusioni, i limiti imposti dalle oppressioni e o dalla supremazia. L'attivismo del piacere afferma che tutti abbiamo bisogno di piacere e ce lo meritiamo. E le strutture sociali devono essere il riflesso di ciò. In questo momento dobbiamo dare priorità al piacere di coloro che subiscono gli effetti più pesanti dell'oppressione. Le attiviste del piacere cercano di comprendere e apprendere dalla dimensione politica e dalle dinamiche di potere insite in ogni cosa che ci fa stare bene. Il sesso, l'erotismo, le droghe, la moda, l'umorismo, il lavoro che appassiona, i legami, leggere, cucinare e o mangiare, la musica, tutte le arti e tutto quanto. Le attiviste del piacere credono che attingendo alla bontà e impotenza di ognuno di noi possiamo generare giustizia e liberazione, coltivando una prosperità capace di guarire laddove siamo stati educati a credere che non ci sia alternativa all'insufficienza di risorse. L'attivismo del piacere basa le sue pratiche su un'analisi del piacere in quanto parte naturale, sicura, liberata dalla vita, e sull'idea che possiamo fornirci a vicenda l'educazione, le altre persone e gli strumenti necessari per assicurarci che il sesso, il desiderio, le droghe, le relazioni e altri piaceri non vadano a minacciare né danneggiare la nostra vita, ma ad arricchirla. L'attivismo del piacere implica l'idea di un lavoro, di una vita vissuta all'insegna della soddisfazione, della gioia, della vitalità erotica, che generano cambiamento politico e sociale fondamentale. L'attivismo del piacere siamo noi. Noi che impariamo a rendere la giustizia e la liberazione esperienze più piacevoli che possiamo fare su questo pianeta. Il linguaggio cambia in fretta al giorno d'oggi. Il modo corretto per parlare di persone, identità, genere, geografia, tutto in continuo movimento. Se state ascoltando questo testo, in un futuro in cui leggiamo che si è ulteriormente evoluto, allora sappiate che vorrei essere lì, a evolvermi ancora insieme a voi. Il potere della leggerezza. Una conversazione con Dallas Goldtooth, una persona che organizza il Keep It Underground all'interno dell'Indigenous Environmental Network e che ha fondato la compagnia di commedia politica 1491. È un fondamentale portavoce della Standing Rock, una mobilitazione radicale di massa per impedire la costruzione di un oleodotto sulle terre di proprietà della popolazione indigena. Una delle mie teorie è che oggi i movimenti politici rappresentano uno spazio in cui le persone raramente vogliono entrare o restare, perché il nostro tono è così serio, così critico, che le persone pensano: io sono già senza speranza e tu sembri così esaurita e stanca, perché dovrei sprecare il tempo così? Tu ricorri al senso dell'umorismo per coinvolgere le persone. C'è stato un momento della tua vita in cui hai pensato: diventerò un comico. Un attimo però, devo continuare a essere un attivista. Lo Standing Rock è stato il momento in cui ho voluto contraddire la narrazione secondo la quale si può protestare soltanto con la rabbia o essere pezzi di merda incazzati che mandano a fanculo la polizia. Io voglio farlo, ma diversamente. Penso che a volte restiamo intrappolate nell'aspetto performativo di tutto questo. Lo facciamo per lo spettacolo e secondo un'idea dogmatica di cosa significa essere contro il sistema. Ed è stato difficile. Molte persone mi hanno respinto per questo. Ho ricevuto molte critiche sul modo in cui ho affrontato la cosa. La gente diceva: non ci tiene abbastanza. Immagino che le persone si chiedano anche se stai prendendo la cosa abbastanza sul serio e poi vogliono seguirti. La tua è una prospettiva accessibile e piacevole. Assolutamente. A ogni passo che faccio mi piace complicare la narrazione. Il nostro compito è complicare le nostre narrazioni, quelle delle nostre comunità e del mondo il più possibile, per il semplice fatto che tutto è molto complesso. E anche gli anarchici più accaniti hanno comunque una vita. E ci sono cose che li fanno ridere, ma in qualche situazione si pensa di dover aderire al personaggio. Certo, escono dal personaggio soltanto quando sono lontane dalla scena. Esatto, solo in privato. Quando invece sono nel bel mezzo della scena, boom, eccomi. Io sono lì, duro, duro, duro. Io dico, ma cazzo, non è che devi essere sempre così duro appena sveglio la mattina, no? C'è qualcosa, poi, dell'essere un uomo indigeno, un leader indigeno e avere questo senso dell'umorismo. Sembra una delle vostre strategie di sopravvivenza, in realtà. Tutto il divertimento e il gioco sono una reazione diretta all'intensità del trauma e della pressione. Ti riconosci in questa dinamica? Assolutamente. In tutta onestà penso che in quanto comunità native non saremmo dove siamo se non fosse per il potere che abbiamo di affrontare la situazione con l'arma della leggerezza. E attraverso l'umorismo e le risate critichiamo il mondo che ci circonda. Dato che non possiamo cambiare le circostanze, possiamo almeno criticarle attraverso l'umorismo e almeno sopravviverne con le risate. Le persone native sono tra le più ciniche al mondo. Non potrebbe essere altrimenti con tutta la merda che abbiamo visto. E sai, in ogni funerale, in ogni momento buio, nella nostra comunità il ruolo di portavoce e nella nostra lingua, le papà, è svolto dall'MC. Fare l'MC è arte. Nelle nostre comunità, le mie specifiche comunità Dakota, c'erano leader elette e poi c'erano le portavoce. Ed erano portavoce a nome di tutte ed è ancora così. La tradizione va avanti ancora oggi. Tutto ciò che dicono è alimentato da altre voci. È alimentato dal processo della comunità. Esatto. Ma il loro ruolo è raccogliere le voci, ma usare anche l'arte dell'emceeing per usare la leggerezza e rendere il messaggio accessibile. A ogni funerale si sentono le barzellette più divertenti e un sacco di risate. Questa è la natura trasformativa dell'umorismo e della comicità. Credo che guarisca davvero e ci aiuti a liberarci. La rabbia è estremamente potente, sì. E può trasformare cose meravigliose, sì. Ma anche i suoi limiti. Erige muri. Il movimento opposto è quello del ridere. E non abbiamo paura di farlo. Io studio somatica e ciò che succede al corpo. È come se il trauma fosse bloccato nel corpo e resterà ad aspettarti finché non te ne libererai. E secondo me, pensiamo sempre che liberarsene significhi piangere per giorni o cose simili. Ma tra le mie più importanti esperienze di liberazione c'è il ridere. Ridere collettivamente. Mentre quando si tratta di piangere, tendiamo a farlo da sole. Ridere è una cosa che si può fare anche con altre persone. Prendi le nostre conversazioni sul decolonizzare la leadership e sull'assumere una leadership indigena. Portiamo avanti queste conversazioni da sempre, fin dal primo incontro. A un certo punto, se le persone indigene non riescono a ridere delle persone bianche durante il loro processo di apprendimento, insomma, ridere mi sembra uno dei modi in cui riuscite a relazionarvi. L'esperienza coloniale non è un'esclusiva di noi nativi, è globale. C'è questa sorta di tessuto connettivo che ci unisce tutte. Quindi rincorrere a quell'esperienza e trasformarla in qualcosa di divertente e mettere davvero a nudo il suo lato disfunzionalmente comico aiuta. Abbatte quelle barriere che esistono tra le nostre comunità e ci unisce. Se penso a una cosa così disfunzionale mi viene da pensare che quella merda è di sé comica. Esiste il costrutto culturale dell'uomo indio, il modo di essere del popolo indigeno, il modo in cui abbiamo costruito l'immagine dell'uomo del popolo indigeno. Anche questo è comico. E nella nostra comicità, il nostro più grande bersaglio siamo proprio noi. Perché facciamo cazzate così esilaranti, così stupide. Cambiamolo così. Mostrare l'assurdità della disfunzione. Sì. E si può disimparare in questo processo, giusto? Non dobbiamo prenderci troppo sul serio perché, per lo più, si tratta di costruzioni e noi possiamo ricostruirle. Mettiamole in termini teatrali. Abbiamo costruito questa identità, queste maschere che non ci rendiamo conto di quanto siano comiche e non sappiamo distinguere la maschera dall'uomo, la maschera da attivista, la maschera da anarchico, da radicale o quella da femminista. Sono tutte maschere che quando cominci a distruggerle capisci che sono solo invenzioni tanto divertenti quanto assurde. Forse non necessariamente divertenti, ma assurde in tanti modi. È una bizzarra invenzione della nostra coscienza sociale. Stiamo inventando la nostra realtà e non possiamo fare a meno di viverla. È un'invenzione radicata in chi siamo, perché siamo consapevoli di noi stesse. E quindi in questo processo di consapevolezza creiamo e inventiamo questa identità. E queste identità sono esilaranti. Insomma, abbiamo questa vita miracolosa e poi passiamo la maggior parte del tempo a sviluppare rigidità, a pensare che ci sia un unico modo di vivere. Ti sono grata perché lanci costantemente i tuoi sassi contro le finestre per dimostrare che la casa è fatta di vetro. È ancora fatta di vetro. È ancora fatta di vetro. È ancora fatta di vetro e continuerà a esserlo. Questo è l'equilibrio. Per l'umorismo indigeno questa è la prova che la comicità bilancia l'invenzione. L'umorismo crea equilibrio con ciò che abbiamo creato per noi stesse. Ed è un atto di equilibrio che porteremo sempre avanti finché non avremo raggiunto il nostro scopo, qualunque esso sia. L'idea che una persona debba nominare l'altra è già un'assurdità in sé. Spesso mi chiedo che senso dell'umorismo avessero i dinosauri, sai? Quando me lo chiedo è il momento in cui mi dico: ci stiamo estinguendo, godiamocela. Anche se questa potrebbe essere la fine del mondo, o la fine del mondo così come lo conosciamo, o la fine della nostra specie su questo pianeta, o qualunque altra fine. Fai del tuo meglio, e sii la persona migliore che puoi, lotta meglio che puoi, ma poi devi anche essere in grado di ridere e liberarti. Ridere ci fa guadagnare tempo. Se hai tempo di raccontare una barzelletta, vuol dire che non hai troppa fretta. Libera le tue fantasie. Quali sono le tue fantasie? Cosa ti immagini quando ti ecciti? L'hai mai condiviso con qualcuno? Il cervello, ovvero la sede dell'immaginazione sensuale, è un luogo privato. Ci sono valanghe di misteri, controversie, studi e quesiti aperti su come funziona il cervello. Cosa lo accende? Cosa genera il desiderio? Da qualche parte, lungo il viaggio nell'attrazione che proviamo verso le altre persone, le immagini dei media, le interazioni sane o malsane con le persone più grandi di noi, i contenuti visivi e le stories tracciano un percorso per il desiderio nel nostro cervello. Cominciamo a eccitarci per certi scenari, a generare fantasie di cose che vorremmo fare o che vorremmo venissero fatte a noi, o che vorremmo vedere fatte ad altre persone. L'Oxford Living Dictionary definisce la fantasia come la facoltà o l'atto di immaginare fatti, specie se impossibili o improbabili. La fantasia, quindi, diventa uno spazio sicuro per desiderare cose che non potremmo mai fare o consentire nella vita reale. Ma poiché il regno dell'immaginazione è anche all'origine di una cultura, immaginiamo cose che a loro volta plasmano i nostri desideri e le pratiche della vita reale. Da dove vengono il capitalismo, il suprematismo bianco e il patriarcato? Da qualche immagine di carenza o di potere che non è reale. È qui che le cose possono diventare complicate, perché nella maggior parte di noi questa forma del desiderio si struttura presto. E se non stiamo attente e creative, possiamo rimanere bloccate in fantasie che non maturano e non si politicizzano insieme a noi. Possiamo, insomma, rimanere intrappolate in fantasie radicalmente opposte ai nostri principi e ai nostri valori, tanto da farci vergognare di ciò che desideriamo, anche se troviamo il modo di ottenerlo. Quando ero molto giovane, avevo una babysitter che guardava Porky's, una trilogia di film che si possono meglio descrivere come capsule temporali della cultura dello stupro degli anni Ottanta. L'appartamento che la mia famiglia aveva a disposizione dall'esercito era piccolo. E io sgattoloiavo, vabbè, andata, fuori dal letto e mi mettevo in un posto da cui osservavo immagini sessualmente degradanti che non capivo. Amavo anche i musical, Grease e Sette Spose per Sette Fratelli. Il risultato dell'esposizione a questo tipo di media fu che le mie prime fantasie riguardavano spesso uomini che si approfittavano di donne magre, che le guardavano di nascosto, intrappolandole, o donne che dovevano cambiare per volontà degli uomini. Ho pensato che il sesso fosse questo, una modalità di relazione con gli uomini al centro e noi donne, che in quanto tali dovevamo riprodurre un meccanismo permanente di seduzione, fare le difficili e farci prendere dagli uomini. Ecco i miei 20 anni, ma poi ho imparato a vedere le cose in modo diverso, a immaginarle in modo diverso. Una volta ho nuotato in uno specchio d'acqua dove l'acqua salata incontrava quella dolce. Con gli occhialini ho potuto vedere la sottile linea orizzontale tra l'acqua dolce al di sopra e l'acqua di mare più densa e pesante al di sotto. Questa immagine mi torna in mente quando penso alle culture in cui siamo immerse negli Stati Uniti. L'acqua di mare più pesante è la nostra difesa, cultura dello stupro, alimentata da fantasie di incesto, violenza, coercizione, trasgressione dei limiti, forza, negoziazioni e scenari in cui il maschile esercita potere sul femminile. Al di sopra di questo c'è la cultura della repressione, spesso radicata nei contesti religiosi. Fantasie represse che si concentrano sulla purezza, l'innocenza, la virginità, la monogamia e la giovinezza. Queste fantasie sono uno dei modi in cui veniamo addestrate a comportamenti normativi di genere che sostengono la nostra cultura stratificata. Impariamo da genitori e insegnanti, dalla rete familiare più ampia, dai media, dai leader religiosi, fondamentalmente da tutte le persone adulte che incontriamo. E naturalmente è lo stesso per le nostre prime amanti, che spesso annaspano nella loro confusione e nei loro processi di apprendimento. Gli uomini imparano a essere penetratori dominanti e iniziatori, imparano che violentare le donne fa parte della loro natura. Le donne imparano a essere dei recipienti, timidi e disonesti. Ci viene insegnato a dire di no fino all'ultimo momento e poi a non dire altro che sì. Oppure a non dire niente e sottointendere un sì. Da coloro che non rientrano in questa costruzione binaria o che si spostano all'interno nel corso della vita, ci si aspetta spesso che mantengano questi ruoli negli incontri sessuali. Le indicazioni, a volte, sono molto dirette, altre implicite. Incrocia le gambe come una signorina, risparmia la tua sensualità per tuo marito, prendila come un uomo. Fa un po' male all'inizio, è solo la natura. Chi è il tuo unico vero amore? A questo si aggiungono i nostri sistemi gerarchici, interiorizzati e intersecati tra loro. Razzismo, abilismo, classismo, eccetera. Ed ecco una pletora di fantasie che alimentano e perpetuano una realtà improponibile. Nota bene, non sto dicendo che negli Stati Uniti non esistano persone che abbiano generato le loro prime fantasie al di fuori del paradigma cultura dello stupro, cultura della repressione. Dico solo che devo ancora incontrarle queste persone. Queste fantasie plasmate dai rapporti di genere definiscono il modo in cui percepiamo il nostro io. Come entro a far parte di questo mondo? Sono desiderabile? Come posso diventarlo? Che ruolo devo svolgere? Devo prendere o dare? E così poche persone arrivano a porsi questa domanda. Cosa voglio veramente? Fin dai primi approcci alla sessualità dovremmo essere incoraggiate a concentrarci su cosa prova il nostro corpo, quali sensazioni e interazioni ci sollecitano, cosa ci mette a disagio, quale tipo di contatto fisico è giusto e come comunicare un ampio spettro di limiti e gradi di consenso, di paranoie e di paranoie, imparando a essere qualcosa che non siamo, disimparando il contatto con la verità con cui tutte siamo nate. Alla fine I nostri desideri sono talmente imbrigliati a certe fantasie socialmente normate che ci troviamo a desiderare l'annullamento di noi stesse o di un'altra persona e pensare di desiderarlo veramente. Ho lavorato per sviluppare attivamente delle nuove fantasie. La fantasia è il luogo in cui ho esplorato per la prima volta l'idea impossibile di essere desiderabile, l'idea improponibile e improbabile che i nostri corpi grassi, corpi neri e razzializzati, corpi con cicatrici e cellulite, corpi che si fanno male, che sbandano, che rotolano, corpi con peli e acne, corpi che sudano, emettono suoni e producono rifiuti. Ecco, l'idea che tutti i nostri corpi sono desiderabili. Questo lavoro mi ha portato a cambiare le amanti che fanno parte della mia vita, il modo in cui mi vedo e mi faccio trattare. E nonostante io scriva tutto questo, non vi rivelerò tutte le mie fantasie. Alcune sono radicate così profondamente dentro di me che non sono sicura che un giorno riuscirò a lasciarle andare e non sono nemmeno sicura di volerlo fare. Ma voglio essere in grado di riconoscere cosa mi appartiene e cosa no. Dovrebbe rimanere una fantasia e cosa è coerente con il mondo che sto generando. Un mondo in cui il genere non è un segno di potere, né dentro né fuori dalla camera da letto. L'amore come resistenza politica insieme. Audre Lorde ci ha insegnato come prenderci cura di noi non è autoindulgenza, ma autoconservazione. E quindi un atto di lotta politica. Sappiamo trasformare in meme, twittare queste parole, ma viverle concretamente è ben più difficile. Abbiamo una socializzazione più profonda da superare. Questo processo che ci dice che abbiamo la maggior parte di noi, se ha, bene, se non ha, non conta. E si tratta di salute, di voto, di lavoro, di sicurezza, le nostre famiglie, le nostre vite, non contano. Non contano quanto quella di un uomo bianco. Dobbiamo imparare a praticare l'amore, perché questo è prendersi cura di noi stesse e delle altre persone. È inteso come atto di resistenza politica ed esercizio di resilienza. Non impariamo ad amare in un percorso lineare, dall'io alla famiglia, dall'amicizia alla relazione romantica, come probabilmente ci hanno insegnato. Impariamo ad amare amando. Pratichiamo le une con le altre, con noi stesse, in ogni tipo di relazione. E in questo momento è necessaria una pratica rigorosa, perché non è più sostenibile amare le persone nel modo in cui le abbiamo amate finora. Chi amiamo? Le persone che attraversiamo, come se fosse una parola italiana. Le persone che attraversano il nostro percorso fisico e virtuale, accendono la fiamma del nostro interesse, guadagnano la nostra devozione, il nostro rispetto e la nostra protezione. Oppure la nostra famiglia, perché abbiamo un legame di sangue. Persone a cui siamo legate ma che non ci piacciono più. E come amiamo? Definendo l'amore attraverso l'obbligo, celebrando l'amore durante le festività comandate dall'esterno, mantenendo le diverse realtà dell'amore dietro porte chiuse, rappresentandolo sui social come fosse una fiaba, rappresentandolo come fosse un prodotto da scambiarsi, rappresentandolo come fosse una risorsa limitata che si ingoia, si consuma e poi si impacchetta, si mette via quando non avremo più bisogno, dando priorità all'amore romantico rispetto all'amore di sé, all'amore tra compagne di lotta e tra amiche vengono dopo. Questo tipo d'amore non è sufficiente, anche se è il più grande amore della nostra vita. Il tipo d'amore che siamo obbligati a festeggiare o da cui vogliamo fuggire a San Valentino ci sta troppo stretto. Moriremo tutte se continuiamo ad amare così. Moriremo di isolamento, solitudine, depressione, abbandonandoci all'oppressione reciproca. Moriremo per la mancanza di contatto, dimenticandoci che siamo preziose. Non possiamo più amare come se fosse un segreto o una presentazione, come qualcosa a cui dare priorità su tutto il resto, qualcosa da accumulare per le persone che conosciamo. Mettere noi stesse al primo posto nell'amore è una strategia politica e sopravvivenza. Dagli spazi religiosi alla scuola, dagli spettacoli televisivi ai tribunali, siamo state socializzate a cercare l'amore privato, persino corporativo, e a perpetuarlo. Il tuo amore è per una sola persona, per sempre. Lo celebri con fiori moribondi e diamanti. Il momento di massima celebrazione della tua vita è prendere l'impegno con quella persona. La tua famiglia e i tuoi amici ti celebreranno con dei piatti e uno spremiagrumi. Per amare ti servirà uno stipendio. Se qualcosa andasse storto col tuo amore, dovrai pagare un sacco di soldi per separare le vostre vite. In genere, senza raccontare troppo alla gente, a meno che non sia un finale da soap opera. Questo modo di approcciare l'amore distrugge qualsiasi possibilità che ne venga fuori qualcosa di buono. Quello di cui abbiamo bisogno ora è un amore radicale e globale che cresca dal profondo di noi stesse per abbracciare tutti gli aspetti della vita. Non è così difficile. Per rendere questo giorno un vero giorno d'amore, ecco qui un breve manifesto dell'amore radicale. Sincerità radicale. Fin da piccoli impariamo a mentire nelle nostre relazioni intime. Mentiamo sul cibo che la mamma ha preparato per evitare di essere punite, mentre ingoiamo lacrime su quanto ci sia piaciuto il regalo ricevuto da San Valentino, sull'amore che vorremmo e su come ci sentiamo. Tutto ciò ci viene insegnato in gran parte sotto forma di fondamenti dell'eteropatriarcato. Gli uomini amano in un modo, le donne in un altro, e dobbiamo mentire per far il colpo e conquistarci a vicenda, no? Troppo spesso si continua a insegnare alle donne a essere sottomesse, a sminuirsi, a essere ubbidienti e un po' più in là a vittimizzarsi e a prendersi cura, ma non a essere compagne, miniere di una preziosa complessità emotiva, capaci di amare altre donne, corpi trans. Queste false verità sulle norme di genere si autoalimentano. Attraverso riviste e film si rafforzano a tavola nelle cene di famiglia. Impariamo che l'amore è una risorsa limitata e che l'amore che desideriamo e di cui abbiamo bisogno è troppo, che noi siamo troppo. Impariamo a ritirarci, a mentire sull'amore completo di cui abbiamo bisogno. Cioè rendiamo un amore meno che sufficiente soltanto per non stare sole. Dobbiamo impegnarci a praticare intenzionalmente la sincerità per opporci a questo processo di socializzazione. Dobbiamo radicalizzare la sincerità, imparare a parlare di ciò che sentiamo e cosa vogliamo, a partire dalle nostre radici profonde. Dobbiamo imparare a esprimere le nostre necessità e ascoltare quelle altrui. Dobbiamo riuscire a dire: ho bisogno di sentirmi dire che ti manco. Se sei sempre fatta, mi è difficile sentire la tua presenza. Ho mentito. Il modo in cui hai parlato con quell'uomo mi ha fatto sentire invisibile. La tua gelosia mi fa sentire un oggetto e non una partner. Risultato di questo tipo di affermazioni è che le nostre vite cominciano a corrispondere ai nostri desideri e diventano le fondamenta di una comunità autentica e poi di una società costruita intorno a necessità reali, persone reali e non fake news enorme del cazzo. Guarigione. Il trauma è un'esperienza comune alla maggior parte degli esseri umani su questo pianeta. L'amore troppo spesso perpetua il trauma, ripetendo dinamiche di intimità dolorose che molti di noi hanno vissuto crescendo in contesti razzisti o eteropatriarcali. La vergogna può arrivare a trasformarsi in sentimento predominante e far sì che il trauma venga nascosto, silenziato o relegato a un certo gruppo di persone. Se siamo in grado di convivere con il nostro trauma e agire come se niente fosse, se crolliamo o perdiamo il lavoro, la casa, le figlie, c'è qualcosa che non va in noi. Abbiamo bisogno di una cultura in cui l'esperienza comune del trauma porti alla normalizzazione del processo di cura. Dobbiamo essere in grado di dire: ho delle valide ragioni per avere paura del buio, di chi alza la voce, di venire risucchiata dall'amore, di stare da sola. E saper essere disponibili per l'altro. Conosco una persona che può aiutarti a guarire. Ti terrò la mano nel buio. Iniziamo una pratica di meditazione insieme. Forse un percorso terapeutico in cui si parla non è sufficiente. Dovremmo celebrare l'amore nelle nostre comunità come misura di cura. L'aspettativa dovrebbe essere quella di sentirsi dire: so che abbiamo tutte bisogno di curarci. E allora, come sta andando il nostro percorso di guarigione? Imparare a cambiare. La maggior parte di noi è resistente al cambiamento che non ha provocato. Ci sentiamo vittime. Quando cerchiamo di aggrapparci con tutte le forze a qualsiasi cosa, troviamo come forma di sopravvivenza. Passiamo troppo tempo ad assistere sbalordito al cambiamento, chiedendoci ad oltranza: ma che cazzo sta succedendo? È ora di imparare la lezione di Octavia Butler. L'unica verità duratura è il cambiamento. E possiamo e dobbiamo plasmare il cambiamento. Perciò dobbiamo prestare attenzione a come rispondiamo al cambiamento. Ci entusiasma al punto da destabilizzarci? O ignoriamo i cambiamenti fin quando non ci accorgiamo che è troppo tardi? O combattiamo i cambiamenti che sono più grandi di noi? Serve tempo e supporto per ascoltarsi dentro e trovare strategie per adattarsi. Costruire comunità di cura. Dobbiamo passare dalle pratiche individuali della cura di sé alla trasformazione collettiva. Stare in comunità con persone guaritrici che fanno parte della nostra vita. Guaritrici. Dobbiamo assicurarci che il nostro dono sia accessibile a disposizione di coloro che fanno crescere e trasformano le nostre comunità. Essere famiglia le une per le altre. Offrire l'amore e la premura che possiamo. Ricevere l'amore e la cura di cui abbiamo bisogno. Facilitate una guarigione di gruppo in uno scambio di massaggi. Pulite la casa di una persona guaritrice in cambio di un rituale di superamento del lutto. Ricambiate la guarigione. Pagate delle sedute alle amiche. Concediamo alle nostre vite di essere un terreno di pratica in cui imparare a generare l'abbondanza di amore e cura a cui come specie aneliamo. Questo San Valentino impegnati a sviluppare un'indistruttibile devozione per te stessa, come parte di un amore completo e rigoglioso. Prendete l'impegno, insieme ad altre 5 persone, a essere più sincere l'una con l'altra, a guarirvi insieme, a cambiare insieme e a diventare comunità di cura che può crescere per sostenerci tutte. Come invito alla collettività che si è creata e come pratiche che possiamo portare avanti, abbiamo raccolto dai consigli di Adrienne un po' di pratiche eccitanti e succulenti per portare avanti questo percorso ben oltre questo reading. Pescatene e condividetele.